Ma insomma, la situazione della Spagna è a dir poco complicata, nel senso che continua a tentare di ottenere fiducia dai mercati, vara nuove misure a favore delle piccole e medie imprese per ridurre il deficit, fa tutti il proprio compito, i propri doveri. E insomma, la speculazione continua a battere, Moody's si accanisce, insomma, è difficile uscire da questa situazione di impasse. Dicono tutti delle verità, nel senso che il governo spagnolo dice giustamente che sta facendo il possibile, dall'altra parte le agenzie di rating fanno il loro mestiere dicendo boh, avete dei problemi sia di rifinanziamento sia con le regioni perché il loro disavanzo sta esplodendo. Dovete fare delle riforme e fatele in fretta. Questa è la situazione, che con un'economia che è in fase di stallo e una disoccupazione che è al 20%, per cui questa è la situazione. Ha due banche, più di due, che sono sicuramente sane, perché bisogna mettere anche la Caixa È e Casa vero. Madrid. Però insomma, il grosso delle casse di risparmio, che poi sono piccole casse locali, è veramente problematica, insomma, per cui si è tentato questa riforma, anzi si è portato a termine questa riforma, dovrebbero entrare capitali e soci privati nel corso del prossimo anno, vediamo, però insomma hanno prestato per anni e anni soldi più di quelli che dovevano fare, per cui da dare, per cui hanno una morosità e partite in sofferenze che sono elevatissime. Si calcola, lo stesso Moody's ieri ha calcolato che sono oltre 170 miliardi le perdite potenziali latenti del sistema bancario, non sono bruscolini, insomma. 170 miliardi?